cos'è quest'estate di Deborah Rosciani. Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi, tanta voglia di ricominciare. Abusiva. Abusivo, abusivismo saranno i termini più gettonati da qui sicuramente ai prossimi giorni. Il protagonista di queste ore di dibattito che segue il sisma di Ischia è l'abusivismo edilizio. Ma che cos'è un abuso edilizio? Quanto può essere grande o piccolo? È così facile commetterlo? Perché a sentire certi commenti che hanno fatto seguito al terremoto di Ischia sembra che sia proprio un gioco da ragazzi innalzare muri dove non si può utilizzare materiali scadenti, altro termine che viene tanto utilizzato in questi giorni e che ieri è stato pronunciato anche dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che ha commentato la situazione degli oltre 2000 sfollati di Ischia. E dicevo, appunto, sembra proprio un gioco da ragazzi innalzare muri, utilizzare materiali scadenti dove non si può, e che sembra che in certe zone d'Italia ci sia il Far West. Sembra che la portata dei danni provocati da questa scossa in Campania, nella perla dell'arcipelago campano, sia stata così bassa per la qualità scadente degli edifici e per i casi di abuso edilizio che avrebbero favorito una proliferazione di strutture non in grado di sopportare anche scosse di entità ragionevole. Anche la polemica sull'entità della scossa è partita. Già ieri ve ne abbiamo dato una premessa nel corso di Ma che cos'è quest'estate ieri mattina, nel corso della quale un sismologo ci ha spiegato appunto le motivazioni per cui all'inizio si è parlato di un magnitudo 3.9, poi corretta rialza 4.1, però insomma gravitiamo intorno a questa entità, di fatto un'entità che non avrebbe dovuto provocare danni del genere ad Ischia. Ischia, dove secondo Legambiente sono circa 600 le case abusive colpite da ordine definitivo di abbattimento. Sull'isola maggiore dell'arcipelago partenopeo arriva a 27.000 il saldo delle pratiche di condono presentate dagli abitanti in occasione delle tre leggi nazionali in materia, e ci sono state solo alcune sporadiche demolizioni negli ultimi anni su disposizione della magistratura, dagli stessi proprietari, e nel frattempo una legge in discussione in Parlamento, il provvedimento Falanga, che vorrebbe fare una distinzione anche a proposito delle demolizioni da fare, introducendo il concetto della demolizione di necessità. Insomma, tanti temi di cui parlare questa mattina. La popolazione di Ischia ancora fortemente preoccupata. Questa mattina un'altra scossetta di assestamento. Noi parleremo di tutto ciò stamattina con i nostri ospiti, che anche oggi sono molti. Vi comincio a salutare Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico e scrittore. Buongiorno, benvenuto. Ma buongiorno. Che cos'è quest'estate? Grazie. Abbiamo la collega Laura Viggiano, che è ad Ischia da ieri mattina. Laura, buongiorno anche a te, ci sei? Salve, buongiorno. E poi salutiamo anche l'ingegner Sandro Simoncini, docente di urbanistica e legislazione ambientale presso l'Università Sapienza di Roma, che anche ieri ha diffuso alla stampa appunto alcuni commenti su questo dibattito. Ingegner Simoncini, buongiorno anche a lei, la sentiremo tra un attimo. Buongiorno. Volevo cominciare con Laura, perché abbiamo subito il traffico, Peter, prima di cominciare la chiacchierata. Benissimo, sono immediatamente richiamata all'ordine, ma ha ragione, prima di iniziare il dibattito per poi interromperlo bruscamente, e togliamoci il nostro primo impegno naturalmente di oggi e torniamo tra poco. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Ma cos'è quest'estate? È un'estate di nuovo che ci impone di parlare di terremoto. Peraltro anticipo che domani faremo anche un'ora di approfondimento sull'anniversario del terremoto del centro Italia con i sindaci del posto, che sono pronti peraltro per la nottata ad organizzare una veglia commemorativa di questo triste anniversario. Avremo anche i nostri inviati. Detto questo, adesso la cronaca ci impone di stare ad Ischia. Laura Viggiano, allora, tu hai passato lì la notte, hai consegnato peraltro un pezzo per il giornale radio stamattina intorno alle 5, quindi non so, l'hai trascorso questa nottata l'hai trascorsa con gli sfollati. Adesso ovviamente le battute sono anche poco simpatiche. Detto ciò, che cosa sta succedendo questa mattina? Poi andremo anche al tema del dibattito sull'abusivismo edilizio, perché ovviamente la popolazione che è lì, che sente anche tutto questo, è un po' indispettita. Laura? Sì, diciamo che chi ha subito le maggiori conseguenze del sisma, in particolare quello di lunedì sera, molto più insomma, della scossa più lieve insomma, che c'è stata nelle ultime ore, è in parte arrabbiata, ovviamente insomma è scioccata, sotto shock per i danni che dovrà in qualche modo rimarginare, insomma le ferite che dovrà rimarginare alla sua vita insomma investita sull'isola, insomma perché ci sono persone che hanno perso case come attività praticamente lavorative, alberghi, negozi e poi ovviamente c'è anche un clima che è quello del reagiremo come sempre e quindi ci metteremo in piedi. Gli sfollati, insomma, abbiamo detto che ci sono circa 2600 persone evacuate, in particolare da Casamicciola Alta e Lacquamino. Molti hanno trovato Le loro case sono completamente inagibili, Laura, oppure potrebbero rientrare, non lo fanno per paura, no, stanno aspettando che queste abitazioni vengano sottoposte ad ulteriori controlli? Dipende dai punti insomma dell'isola di cui parliamo, perché non c'è una situazione diciamo uguale per tutta l'isola. Ci sono alcuni punti che hanno subito di più, come dicevo prima, Casamicciola Alta e una parte di Lacquamino, dove ci sono tre case completamente distrutte e altre distrutte in parte. Anche delle stradine interne che collegano insomma dei riottoli, che collegano le case, non sono agibili. Perché sono praticamente tutte crepate e quindi il camminarci su dà la sensazione di essere un pavimento instabile. Ti sentiamo con molta fatica, Laura, però abbiamo capito appunto il senso della differenza della situazione delle abitazioni. Sì, particolarmente in differenza. Diciamo, questo è un punto. Giù poi, insomma, se si va invece nella parte più bassa, verso la costa, verso i porti di Ischia, non si vedono i segni del sisma, perché gli edifici sono rimasti intatti, c'è solo la paura che si legge sui volti della gente, perché sicuramente è rimasta, così come è rimasta i turisti che sono scappati dall'isola. Ho capito male, Laura, che tu sei in un albergo vicino all'abitazione crollata dalla quale sono stati recuperati tre bambini che ormai diventeranno un po' il simbolo di questa circostanza. Io sono stata lì e ho parlato con la proprietaria, che essendo un'isolana mi raccontava di essere abituata a sentire scosse, perché non è una cosa nuova per Ischia, per un territorio che nasce praticamente su un vulcano, perché Monte Epomeo è un vulcano sostanzialmente, e quindi loro sono abituati ad avvertire scosse, e mi diceva quella di lunedì sera è stata fortissima ed è stenta a credere, anzi lo ritiene inverosimile che sia solo una scossa di magnitudo 4. Infatti una discussione che era abbastanza frequente con gli abitanti insomma, di Casamicciola Alta ieri mattina era proprio questo, insomma il punto, la misurazione della forza di questo sisma e anche il centro, perché tutti si chiedevano com'è possibile che l'abbiamo sentita con una tale forza e com'è possibile che sia stata così devastante, facendo tra l'altro il paragone con l'anno scorso, il 28 agosto Ischia ha comunque avuto un altro terremoto, un'altra esperienza di terremoto, la magnitudo era poco più alta del 3, e non è stato così devastante. Certo. Anzi, magari in quel frangente, adesso io non me lo ricordo, probabilmente è stata fatta anche una relazione con quello che stava accadendo nel centro Italia, e mentre per quello che riguarda questa scossa, diciamo, ogni tipo di relazione è stata completamente negata, dicono gli esperti che non ci sia. Per cui, insomma, è una zona che ogni tanto qualche piccola botta la sente, sono abituati, l'entità presumibilmente è sempre la stessa, questa volta però i danni sono stati trattati bene, diversi. Laura, grazie intanto per essere stata con noi, ti auguro buon lavoro, perché sono giornate per gli inviati di ogni testata che sono lì molto, molto intense. Intanto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ieri il decreto firmato dal Premier Paolo Gentiloni, che affida al capo della Protezione Civile Borrelli il coordinamento dell'assistenza e del soccorso alla popolazione colpita dal terremoto di lunedì sera, e con la dichiarazione di emergenza ci saranno poi tutti gli strumenti straordinari che potranno essere utilizzati dal capo, dal commissario, scusate, che il capo della Protezione Civile nominerà con ordinanza d'intesa con la Regione Campania. E intanto proprio a Borrelli è spettato il compito di dare ieri le prime risposte di fronte alle conseguenze del sisma di magnitudo 4, 3, 9, 4 e 1, o forse una scossa più importante. Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, scrittore, ovviamente ogni terremoto che si rispetti ha la polemica d'ordinanza, in questo caso riguarda l'entità delle scosse e poi l'abusivismo edilizio. Andiamo sul primo tema, che magari è quello che è un po' più affine a lei. È importante questa differenziazione appunto della magnitudo, ed è secondo lei possibile che la popolazione del posto abbia una percezione che la scossa sia stata molto più importante e non rilevata correttamente? A noi sembra incredibile. Tozzi. Ma io rimango senza parole, perché adesso che la popolazione si dica esperta di terremoti, quando non ha fatto nemmeno un convegno sul rischio sismico negli ultimi 50 anni, invece ha fatto solo convegni di medici a Ischia, francamente lascia perplessi. Insomma, in un posto del genere io avrei fatto almeno due volte all'anno un convegno per dire che cos'è un'isola vulcanica, che rischio c'è, quello che bisogna fare, magari pure per conoscere la differenza tra magnitudo e intensità, che forse gli avrebbe fatto bene. Qual è la differenza? Rimango veramente senza parole. La magnitudo è un valore assoluto, è quello che determina la forza del terremoto ed è uguale per uno stesso terremoto in tutte le parti del mondo, cioè viene registrata in tutti i sismografi del mondo. Dunque, per tutti i sismografi, la magnitudo dell'evento di Casa Micciola è 4,0 Richter. Poi l'intensità dipende dal territorio in cui questa magnitudo si sprigiona. Invece, cioè il danno, dipende dagli osservatori e dai beni esposti e dalla scala Mercalli. Dunque, sono due cose completamente differenti. Uno è Richter, uno è Mercalli. Come si faccia a fare confusione? Non capisco. Che poi lì il terremoto abbia avuto una percezione diversa, dunque sia stato più distruttivo, dipende dal fatto che l'epicentro era superficiale. Adesso qui la popolazione addirittura vuole determinare dove era l'epicentro. Sì, 5 a 10 chilometri. Siamo veramente al delirio, era 5 chilometri circa, questa è stata l'ultima determinazione, dunque molto superficiale, minor tempo per attenuarsi delle onde mentre arrivano in superficie, poi i terreni erano molli, e la situazione morfologica, cioè il posto dove si trova la Casa Micciola, è collinare, eccetera. Tutto questo amplifica le scosse, compreso il fatto che avvengono in un edificio vulcanico. Dunque, tutto questo ha amplificato le scosse, ma e c'è anche stata un'accelerazione di picco del terreno, come si dice, cioè la forza con cui gli oggetti vengono scagliati verso l'alto durante un terremoto, quello che le persone avvertono come moto sussultorio. Ecco, questa cosa qui ha portato a un effetto amplificato. Ma il terremoto sempre di magnitudo 4 resta, cioè un terremoto per cui in nessuna parte del mondo, non solo non si piange un morto, ma non c'è nemmeno una crepa negli edifici. Sì. Questo è il punto fondamentale. Di che cosa stiamo parlando? Io veramente rimango senza parole. Ora vedremo se questi edifici sono stati abusivi, per arrivare alla seconda parte della domanda, ma bisogna ricordare che anche quelli condonati, e ci sono stati 3 condoni, restano abusivi da un punto di vista della sicurezza. Legalmente li hai sistemati, ma se avevano delle pecche, per cui rimangono abusivi, dunque bisogna andarla a vedere. E in più Ischia è il condensato rimangono italiano. Abusivi, rimangono insicuri anche, ecco, poi esatto, rimangono insicuri. E voglio dire che Ischia è il condensato italiano, perché ha rischio vulcanico elevatissimo, è un vulcano attivo, rischio sismico, l'abbiamo visto, rischio idrogeologico altissimo, l'abbiamo visto con l'alluvione dell'anno scorso e con tante altre alluvioni, e lì quelle case investite, compresi gli alberghi, erano tutti abusivi. Dunque le polemiche dei sindaci, per favore, fanno più bella figura a starsi zitti. Tozzi, la sua posizione è molto chiara questa mattina. Senta, ieri il presidente di Legambiente Campania, di nuovo diramando un po' tutti i dati che loro raccolgono costantemente, che appunto articolano nel dossier Mare Monstrum, ha detto è una situazione allarmante, perché ad Ischia non c'è soltanto il rischio terremoto, ma anche quello di frane e smottamenti. E con la siccità di quest'anno le prime piogge rischiano di essere un disastro. L'acqua scorrerà come un fiume sull'isola. Anche questo aspetto va considerato in quest'estate, che è stata molto poco generosa per quello che riguarda l'acqua, ma molto generosa per quello che riguarda il sole e il caldo. Tozzi, certo, è un tema da considerare, sì. In tutta la campagna, direi in tutta Italia, tanto per cominciare, tutta la superficie percorsa da incendi è soggetta in autunno al rischio idrogeologico, perché quel terreno è diventato rigido e dunque quando arriverà l'acqua, poi con queste modalità nuove in cui ne cade tantissima in poco tempo, le alluvioni e le frane saranno la regola. A Ischia è in maggior luogo perché quei terreni sono facilmente sfaldabili, perché l'isola è tutta molto pendente, come sa chiunque abbia asceso il Monte Epomeo una volta nella vita. Dunque questo sarà una cosa da tenere in considerazione. È proprio questo, a maggior ragione, che ci deve far bloccare 27.000 condoni chiesti a Ischia, e soprattutto deve far abbattere subito le 600 costruzioni abusive. Qui non si parla, qui altro che abusivismo di necessità, qualsiasi sia la ragione di quell'abusivismo, queste costruzioni lì non ci possono stare perché addirittura lo creano il rischio. Prima non c'era, cioè se tu metti una casa in un posto dove non c'è niente, tu crei automaticamente il rischio se quel posto ha una sismicità, e dunque queste vanno abbattute. Invece abbiamo assistito alle bombe Molotov contro la polizia pur di resistere agli abbattimenti. Ma ragazzi, ma questa è una situazione di illegalità che crea rischio. Non ci devono essere tentennamenti su questo. Volete fare una buona cosa, mettetevi d'accordo per dire che come parte la ricostruzione, che sarà fatta per queste zone, partano pure gli abbattimenti delle case abusive. Vedrai che diamo un segnale diverso. Avremo adesso anche tutta l'attenzione che si sposterà sul provvedimento che dovrebbe appunto contenere misure proprio ai fini dell'abbattimento selettivo di queste abitazioni. Sappiamo che c'è anche un parlamentare che porta avanti questa battaglia, che si è dimesso di recente proprio perché non ha potuto portare avanti la battaglia secondo quello che c'era nella sua testa. Adesso ne parleremo con i prossimi due ospiti. Peraltro ci ha raggiunto anche Vezio De Lucia, architetto, urbanista ed è stato assessore all'urbanistica del Comune di Napoli. Ha coordinato la ricostruzione di Napoli dopo il terremoto del 1980, conosce molto bene la situazione campana, oltre che quella di tutto il territorio. Intanto lo saluto. De Lucia, buongiorno e grazie di essere con noi, grazie per la sua disponibilità. Segnalo anche, direi che a questo punto andiamo a fare la seconda pausa, quindi andiamo avanti anche con i nostri adempimenti formali come è necessario fare. Segnalo anche, ricordo ai nostri ascoltatori, mi dimentico spesso di farlo, che potete intervenire in diretta all'800 24 00 24, continuare a scriverci come state facendo su WhatsApp, sugli SMS al 349 238 6666. Faccio fare un sorriso a Mario Tozzi, un ascoltatore, lo paragona al professor Burioni, che è il paladino dei vaccini nel nostro paese, e l'ascoltatore scrive: oggi Tozzi capisce cosa prova Burioni ogni giorno. Detto questo, andiamo a sentire la nostra pausa pubblicitaria tra pochissimo. Ma cos'è quest'estate? Day by day, tell me, shine on me. Ma domani, so che si passa il confine. Un anno fa cominciavamo domattina a quest'ora a raccontare invece quello che stava accadendo nel centro Italia. Toccava anche a me un anno fa da questo stesso microfono. Speriamo l'anno prossimo, se dovessi fare la stessa trasmissione, di non celebrare un terzo anniversario di questi argomenti. Detto questo, quello di cui parliamo questa mattina è tutta la coda di polemiche che sta accompagnando invece il sisma che ha colpito lunedì sera Ischia. Adesso tutta la concentrazione è sui decenni di abusi edilizi che hanno colpito a vario titolo naturalmente il nostro paese, ma sembrano particolarmente concentrati appunto in Campania. Le cifre si sprecano, sono tirate giù da 1000 rapporti di ogni tipo, di ogni organizzazione, di ogni istituzione appunto elaborate in questi anni. Il tema c'è, è forte. Poi è ovvio che anche a noi un po' disturba il fatto che con due morti e tutti feriti e tutti gli sfollati, adesso subito la coda delle polemiche sia partita immediatamente. Piangere sul latte versato forse non serve a molto, ma in realtà in un contesto problematico come questo forse un pochino serve. Allora, Vezio De Lucia, intanto buongiorno di nuovo al nostro ospite di questa mattina, grande conoscitore del territorio italiano e campano, è stato anche funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici, dall'86 direttore generale del coordinamento territoriale e membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, rimosso con un po' di rumore dal suo incarico nel 90, è stato dal 93 al 97 assessore all'urbanistica del Comune di Napoli, prima amministrazione Bassolino. Ieri i sindaci di Ischia si sono sollevati naturalmente ovviamente con molto rumore, e in una nota congiunta hanno detto di deplorare le notizie false relative a presunti danni e crolli in tutta l'isola e alle inesistenti connessioni tra l'evento sismico e i fenomeni legati all'abusivismo edilizio, rilevando che i crolli circoscritti alla zona colpita hanno interessato per lo più strutture antiche e risalenti, tra le quali fino anche una chiesa già distrutta dal terremoto del 1883 e poi riedificata. Ieri sentivo su Sky anche la forte presa di posizione, fino alle lacrime, del presidente di un comitato di diritto di difesa, appunto, di diritto all'abitazione di Ischia. De Lucia, da dove vuole partire? Ma partiamo dalla presa di posizione dei sindaci. Io penso che prima si interrompa questo oltranzismo a difesa dell'abusivismo, meglio è per tutti, a partire dagli amministrati e dagli amministratori di questo sventurato territorio. Adesso naturalmente ci saranno gli accertamenti, ci penserà anche la magistratura a stabilire in che misura gli alloggi colpiti dal sisma erano abusivi. Certo, posso dirlo, le immagini viste in televisione anche degli alloggi dove hanno recuperato fortunatamente i tre bambini appartenevano, mi pare che si possa dire con tranquillità, a un paesaggio abusivo, chiamiamolo. Diciamo così, sì, noi per primi, è stato detto da molti, anche su molti giornali, sì. E quindi comunque gli accertamenti stabiliranno poi l'entità dell'incidenza dell'abusivismo su. Però comunque resta il problema, che è intollerabile, come diceva lei, decenni di abusivismo a Ischia soprattutto, ma in genere in Campania e nel territorio del Mezzogiorno, e questa continua difesa, che poi naturalmente diventa un tema politico che all'avvicinarsi a un clima elettorale nel quale ci aggiunge sempre un'altra perla, purtroppo diventa sempre più acuto. Io non voglio, giustamente diceva lei, forse non è il momento di queste cose, però non si può neanche non. Il tema non è che dovremmo prendere sempre prendere questi momenti per ripensare alla ricostruzione del territorio secondo determinate caratteristiche, determinate modalità, ma ogni tragedia, piccola o grande nell'entità, a quanto pare qua da noi non serve mai a niente se non a scatenare le polemiche, come quelle che per esempio adesso stanno corredando anche l'uscita di scena di Vasco Errani da commissario appunto della ricostruzione delle zone terremotate del centro Italia. Ma senta, De Lucia, lei che lo conosce molto bene, già quello che dovevamo dire appunto sul commento dei sei sindaci dei comuni dell'isola di Ischia lo abbiamo detto, ci fa una cartina geografica aiutandoci a visualizzare le peggiori zone d'Italia in questo senso, nel senso di abusivismo edilizio. Su Ischia abbiamo detto ormai, no? Per chi non ha conoscenza di questo tema ma comunque si scandalizza perché questa piaga è inaccettabile, eppure è silenziosamente tollerata e perdonata, nel senso che se io vedo il mio vicino di casa che magari erige un muro perché vuole proteggersi, farsi il giardino a casa sua, non potrebbe farlo, mi scandalizzo, mi arrabbio, dopodiché dico ma se lo fa lui lo faccio anche io, poi ecco silenziosamente noi sta bene tutto quanto, no? In Italia che situazione hanno? Dove ci sono le situazioni peggiori da questo punto di vista? Per chi non le conosce, la situazione di gran lunga peggiore è Roma, è la capitale, questo dice tutto, secondo me. Parte della capitale, un terzo circa dell'espansione recente del dopoguerra di Roma è di origine abusiva. Oggi non so se si può chiamare tutta abusiva perché in gran parte è stata condonata, ma diciamo che è venuta su abusivamente. Sono centinaia di migliaia gli abitanti di Roma che vivono in quartieri di origine abusiva, e l'abusivismo continua a Roma, non è affatto bloccato. Ecco, credo che basti questo per dire quanto sia grave il fenomeno, un fenomeno che ha riguardato e coinvolto alla fine tutte le amministrazioni, e sulla quale non si riesce a fare intanto a fermarlo in modo radicale e decisivo. Un discorso lungo e complicato che forse è inutile fare in questa no, sera. Infatti. Però il tema è che esatto, no, ma il tema è che comunque tutto ciò che è abusivo e andrebbe abbattuto, bisogna anche su questa operazione andare con molta prudenza, no? Sa che c'è in discussione alla Camera il cosiddetto disegno di legge Falanga, è proprio un provvedimento sull'abusivismo promosso come primo firmatario da Ciro Falanga, che è un senatore che il 19 giugno si è dimesso a seguito di tutte le polemiche che hanno accompagnato questa sua visione sul tema dell'abbattimento, una sua presa di posizione molto dura che in quella circostanza fu determinata la sua dimissione, perché durante l'abbattimento di un'abitazione a Deboli il proprietario della casa è morto e lui disse: uno speculatore o un camorrista non muoiono di infarto se gli abbattono una casa. Questo voleva dire che questo proprietario di questa casa è morto dal dolore per l'abbattimento della sua abitazione, da qui la necessità di fare abbattimenti selezionati, selettivi. De Lucia, che ne pensa? Ne pensa tutto il male possibile di Falanga, ovviamente. Cioè, lei abbatterebbe, raderebbe al suolo tutto ciò che è abusivo, senza preoccuparsi degli sfollati. Le leggi ci sono, una parte dell'abusivismo può essere risanata. Stiamo parlando di Roma, gran parte dell'abusivismo di Roma è stato risanato. Qui non si tratta di. Cioè, nessuno può sostenere l'identità, tutto quello che è abusivo uguale, tutto da demolire. Il fatto che non si demolisca nulla, questo è il punto. A proposito di Ischia, ieri su qualche giornale c'era un'intervista al benemerito magistrato Aldo De Chiara, non so se l'ha letto, che si era impegnato moltissimo. Ex procuratore aggiunto di Napoli che ha visto scoppiare delle scintille con Falanga, sì. Vedo che lei è molto informata. Ebbene, non si è riusciti, lei lo sa, Ischia si rivoltò, processioni con il parroco in testa, tutti i partiti, tutti d'accordo nel dire non si possono fare. E quelle erano, lo diceva prima Tozzi, cose pericolose per chi abitava in quegli alloggi, destinate alla demolizione senza rimedio, senza nessuna possibilità, senza nessuna alternativa. Invece si va avanti con queste proposte, perché poi si discute di Falanga. Io spero che sia sepolto per sempre quel disegno di legge, però è stata approvata. Già mi ero spaventata quando il disegno di legge che venga. Tra l'altro, l'ultima discussione pesantissima che ha avuto con De Chiara, io l'ho ricostruita dalle agenzie De Lucia, non sono una conoscitrice così attenta di queste problematiche, ma perché hanno polemizzato in maniera molto forte sul tema dei parametri utilizzati per definire l'abuso di necessità basati sui metri quadri dell'immobile, quindi non sulla qualità scadente dei materiali o su altro, sul fatto di costruire o meno dove non c'è permesso. Non esiste più. L'abusivismo di necessità non esiste da decenni, non è una questione di tempi. Adesso è tutta un'attività edilizia illegale. Illegale è apparentata con fenomeni malavitosi. L'abusivismo di necessità era quello dell'autocostruzione, dell'immediato dopoguerra, del neorealismo, degli edili che arrivavano nella capitale e si facevano le case perché non trovavano un'altra sistemazione di alloggio, eccetera, con mutualità, con scambi di favori fra le famiglie che costruivano. È durato pochi decenni. Con gli anni 60-70 è finito l'abusivismo di necessità, inteso in questo senso, ma è un'attività edilizia, illegale e in qualche misura. E punto, esatto, cioè possiamo parlare di questo argomento per ore e ore, ma la situazione di illegalità c'è, non si può più fare, quindi adesso il tema è capire però come sanare. Tutto quello che di pregresso c'è, che non è stato neanche risolto con tutti i vari, ovviamente, condoni, almeno dal punto di vista dell'aumento di sensibilità delle persone che abitano in queste abitazioni, in questi edifici, in queste strutture, perché come diceva giustamente Mario Tozzi prima, poi alla fine loro pensano che con il condono la loro situazione sia più tranquilla, ma comunque la casa irregolare non sicura ce l'hai sempre, per cui almeno da questo punto di vista un po' ti devi allertare, anche culturalmente parlando. Le faccio conoscere il nostro prossimo ospite, che è l'ingegner Sandro Simoncini, docente di urbanistica e legislazione ambientale all'Università Sapienza di Roma e anche presidente di Sogea SPA, che è un provider italiano che si occupa di real estate, ma ci interessa di più la sua esperienza nel campo urbanistico e della legislazione ambientale, perché anche lui ieri molto chiaramente chiamato dalla stampa a commentare questa vicenda, si è costruito ovunque, spesso con scarsa qualità. Dentro il commento ricorrente di queste ore, anche su Ischia, ha parlato di un'isola sfregiata da decenni di abusi edilizi. Cosa commenta rispetto alle dichiarazioni che abbiamo sentito dei nostri ospiti precedenti? Simoncini, peraltro, lei, ho visto che ha fatto anche nel suo commento una valutazione sul tema della vocazione turistica dell'isola, che ha amplificato i fenomeni di abusivismo che caratterizzano tutto il nostro paese, no? E che riguardano anche la situazione della ricettività alberghiera. Beh, diciamo che, come ha detto già il geologo Tozzi, un terremoto di intensità come quello che c'è stato ad Ischia in un'altra zona avrebbe provocato questi danni. C'è stato un terremoto qualche mese fa tra Trento e Verona di una simile intensità, del quale non se ne è nemmeno parlato perché non ha provocato questi danni. Ora, è ovvio che Ischia è un'isola dove la vocazione turistica la fa da padrona, e di conseguenza anche le strutture turistico-ricettive hanno, come le unità abitative residenziali, negli anni ampliato, costruito o ampliato le proprie superfici, i propri volumi in maniera illegittima, poi sanata, perché con il condono del 1985 era consentito sanare anche nelle zone vincolate, cosa che con l'ultimo condono invece del 2003, grazie a Dio, non era consentito. Ora, con le leggi sul condono edilizio, i proprietari di immobili che hanno eseguito questi abusi si sono visti poi la possibilità di sanare questi abusi, e alcuni li hanno sanati, quindi oggi non sono più abusivi questi immobili. Naturalmente il fatto di averli sanati deve poi sposarsi con la messa in sicurezza di questi ampliamenti e di queste costruzioni, che sicuramente sono state fatte in fretta e furia per poterle fare in velocità e non essere in qualche modo sospesi durante l'esecuzione di questi lavori e trovarsi in una situazione peggiore. Quindi è questo che in qualche modo non è avvenuto ad Ischia o in altre parti d'Italia, dove gli abusi edilizi denunciati, io ho presentato l'unico rapporto esistente sul condono edilizio in Italia in Senato ad aprile dello scorso anno, intervistando tutti i comuni italiani e sapendo in ogni comune quante sono state le istanze presentate e le istanze lavorate. Ora, per correggere un dato... Aspetti un attimo, vado a sentire la nostra pausa e poi ci racconta bene che cosa indicava in questo rapporto. Ah, non c'è adesso, scusami Peter, lo sai che io voglio fare le pause pure quando non c'è bisogno. Stamattina no, pensavo, avevo visto un segnale, pensavo che fosse il tempo di una pausa. Allora, ci racconta questo rapporto, ecco, come ha fatto, come ha condotto questo censimento, come l'hanno accolta i sindaci condotto in condizioni particolarmente non brillanti da raccontare, e cosa è emerso? Ecco, diciamo che è emerso innanzitutto che abbiamo premiato Ferrara con un premio Best Practice, perché è stato forse il miglior comune nella gestione del condono edilizio, e poi è emerso, per esempio, per dare dei dati, che sono state circa 15 milioni le domande di condono presentate. Ora, oltre alle domande di condono presentate, ci sono molti abusi sommersi che non sono stati denunciati. A parte la best practice, la malpractice è la Campania, altre zone particolarmente, no, ci parlava di Roma, Vezio del Lucano. Non c'è una malpractice. No, Roma non è così. Non è, a Roma ci sono state 600.000 domande contro le 15 milioni presentate in Italia, quindi il dato che ho sentito poco fa non lo ritengo corretto, perché sono 600.000 le domande e naturalmente c'è una grande densità abitativa. Il rapporto ha fatto densità, numero di domande presentate, perché laddove ci sono un numero di abitanti superiore, le domande naturalmente salgono. Ecco, solo ad Ischia abbiamo avuto circa, solo nel comune di Ischia, perché l'isola conta 6 comuni, abbiamo avuto 7.000 domande. Di queste 7.000 domande... In 30 anni però, giusto? In 30 anni, nei tre condoni edilizi. Sì. Di queste 7.000 domande, 4.000 sono ancora da evadere, oltre 4.000. Vuol dire che il comune ancora deve guardarle e dare gli eventuali dinieghi. E probabilmente si riferiscono anche ad abusi che non possono essere sanati. Ecco, voglio dire questo, le amministrazioni comunali, purtroppo per loro, devono gestire le istanze di condono e è impopolare dare dei dinieghi. Per questo motivo spesso tengono negli archivi dei comuni già sentono tutte le domande e non investono su questo servizio, creando un danno anche all'erario, perché gestendolo incasserebbero gli oneri concessori, l'oblazione, i diritti di segreteria, i diritti di istruttoria, il danno ambientale che ricevono, e questo non lo incassano perché è impopolare dare dei dinieghi. È impopolare dal punto di vista elettorale, naturalmente. Vezio De Lucia prima l'ha detto chiaramente. C'è stato anche il famoso caso di Licata nel palermitano, dove il consiglio comunale ha sfiduciato proprio pochissimo fa il primo cittadino Angelo Cambiano, il sindaco demolitore, come lo avevano ribattezzato, per la sua fermezza nel far abbattere case e ville dei suoi concittadini, con sentenze ormai definitive che hanno giudicato appunto abusive. Cambiano ha pagato così la sua lotta alle case abusive che da decenni occupano la fascia entro i 150 metri del litorale di Licata. Vi faccio sentire De Lucia e Simoncini, due ascoltatori, perché li chiamo, chiedo loro di intervenire, poi li lascio lì attendere, ma ci sembrano molto interessanti anche i commenti che arrivano dai nostri amici all'800240024. C'è anche Piero da Merate che scrive: Ischia vive di turismo, Ischia crolla per un terremotino, i turisti scappano, Ischia perde una montagna di soldi, il danno d'immagine per il paese è devastante. Sì, abbiamo pure questo, Piero, di aspetto da considerare. Segnalo inoltre che io avrei voluto fare stamattina, ma lo farò, solo che l'ho rinviato a dopo le 9, il piccolo vademecum per metterci in sicurezza se arriva una scossa che fa tremare particolarmente le mura di casa nostra, perché sono rimasta molto colpita dall'atteggiamento che mi è sembrato molto responsabile dei bambini che abitavano in questa casa crollata, che sono stati tutti e tre salvati, appartenenti appunto a questa famiglia numerosa, perché pare che il più grande, insomma, sia stato particolarmente bravo nel subito rifugiarsi sotto il letto, mettere in condizione di sicurezza anche il suo fratellino. Per cui ribadiamo anche le regole da seguire, perché non tutti abbiamo la lucidità sempre di sapere quello che dobbiamo fare a fronte di queste emergenze. Detto questo, sono partita chiedendomi: ma che cos'è un abuso edilizio, quanto può essere grande o piccolo? Nicola da Milano sembra che ne sappia. Nicola, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Io faccio l'ingegnere di mestiere e per mestiere mi occupo da 15 anni di consulenza immobiliare per una grossa società, e vi dico, il problema del fenomeno e dell'entità del fenomeno e ben oltre, almeno dal mio punto di vista, quello che chiunque abbia detto in questo momento, perché è un problema culturale. Io entro più o meno attraverso la mia società in 70.000 immobili all'anno, più o meno, perché facciamo le valutazioni per l'erogazione del credito, e su oltre il 50% degli immobili che visitiamo c'è almeno una piccola irregolarità, che sia catastale, che sia di una piccola regolarità edilizia. Il problema è che culturalmente noi siamo un paese nel quale abbiamo l'abitudine a non prestare alcuna attenzione alle condizioni di sicurezza e alle condizioni di regolarità che i nostri immobili e gli immobili dove abitiamo hanno. Guardi, glielo testimonio, perché tutte le volte che noi facciamo trasmissioni su, che ne so, la necessità di rilasciare un certificato di sicurezza, le certificazioni energetiche, c'è tutto il tema della riforma del catasto, ogni volta che si parla di tutto questo, e quindi a 360 gradi del tema della sicurezza, della regolarità delle nostre abitazioni, anche perché adesso ce lo chiede sempre di più l'Europa, c'è sempre una levata di voci, di scandalo. Ecco lo Stato che chiede un'altra tassa, e quindi viene sempre tutto circoscritto e banalizzato in questo senso, Nicola, per cui ha ragione in questo senso, è vero, non ci sta bene mai niente, perché percepiamo sempre tutti come l'ennesimo balzello da dover pagare per soddisfare in qualche maniera lo Stato, non si sa in che modo. Nicola, fare ancora un commento. Voi sapete che le nuove procedure per l'agibilità provvisoria degli immobili soggetti a terremoto è fatta con una pratica che si chiama FAST, che è fatta generalmente da due professionisti che vanno sull'immobile e danno un'agibilità parziale prima che sostanzialmente la protezione civile dia l'agibilità agli edifici terremotati, in modo tale che le persone possano rientrare. Ecco, però il mio problema è: quando io entro dentro un immobile che era abusivo prima del terremoto e in qualche modo io devo immaginare un contributo pubblico per risanare o ricostruire un immobile che in partenza era abusivo o non era sicuro e anche solo fosse stato condonato, il mio problema è che i danni a carico dello Stato per, diciamo, sanare questioni pregresse che un terremoto ha in qualche modo evidenziato, ma che potrebbero addirittura avere come risultato un contributo pubblico per la ricostruzione di quegli edifici, ecco, allora mi chiedo se a questo punto la civiltà di questo paese non possa cominciare a pensare che se un immobile era abusivo prima di un terremoto non dovrebbe mai e poi mai avere alcun contributo nell'eventualità in cui un sisma lo facesse crollare o lo danneggiasse e che quell'immobile dovesse essere ricostruito. È un dibattito che veramente ci consente di aprire tante parentesi. La ringrazio per il suo contributo, Nicola, sul quale chiedo un pensiero all'ingegner Simoncini. Simoncini, mi sente? Sì, a fatica, ecco. Dove è finito? Si era messo a prendere un caffè in attesa che la richiamassimo. Ha fatto bene, naturalmente, lo vorrei prendere con lei. Sempre allo stesso modo, il caffè l'ho preso prima. No, diciamo che è un pensiero corretto. Noi italiani corriamo dal dentista solo quando il dente cariato è già caduto e spendiamo di più per sistemarlo di quanto avremmo speso per mantenerlo in efficienza. Di cultura siamo così, quindi prima di tutto dobbiamo cambiare la nostra cultura. E anche il problema dei fondi per le ricostruzioni è un problema che oggi abbiamo, perché non è tanto l'intero immobile abusivo, ma magari una porzione dell'immobile costruita abusivamente che poi ha generato un maggior danno al resto dell'immobile. Perché quando io faccio una sottrazione abusiva, io cittadino non mi preoccupo di sapere se il fabbricato sottostante sorregge il peso della nuova costruzione, il carico permanente che vado ad insistere, ma lo costruisco e basta. Magari dopo che ho ottenuto la concessione in sanatoria, una costruzione posticcia iniziale la faccio in muratura, aggravando maggiormente. Non me ne preoccupo. Questa purtroppo è la nostra cultura, è la prima cosa che noi dobbiamo cambiare, perché poi andiamo a richiedere, quando ci succede una sventura come questa, dei fondi pubblici per la ricostruzione, ma realmente non solo non avremo diritto, ma magari proprio la nostra costruzione ha insistito al dissesto idrogeologico per le condizioni o la zona in cui è stata costruita. Allora, intanto io non riesco a sentire Walter da Modena, che ci voleva raccontare che ha costruito e progettato abitazioni antisismiche per una vita. Abbiamo salutato anche Vezio di Lucia, perché voglio conservare l'ultimo minuto di tempo ancora con l'ingegner Simoncini, perché mi voglio togliere una curiosità, visto che ci ha raccontato di aver rilasciato questo rapporto sui condoni edilizi in Italia da un anno. Mi dice quali sono i più diffusi, cioè all'interno delle case italiane, che cosa c'è di particolarmente diffuso e stravagante? Ce lo racconta in un minuto? Sono piccoli abusi, la chiusura della veranda, la chiusura della veranda, questi sono gli abusi più comuni. Il fatto di chiudere una veranda... Che non mettono però l'abitazione in una condizione di mancata sicurezza, ma quelli che invece mettono le case in condizioni di totale insicurezza, quali sono? Quali diciamo gli italiani si cimentano senza alcun problema? Beh, diciamo che questi sono gli ultimi abusi. L'albergo ad Ischia, costruito sulla roccia a ridosso del mare, è naturalmente abusivo. Un importante abusivo. Tutte le leggi vietano le costruzioni a certe distanze, quindi naturalmente quello, specialmente in una situazione speculativa, perché la struttura turistico-ricettiva è oggettivo sia speculativa, sono intere costruzioni costruite in totale difformità dello strumento urbanistico e non in assenza del titolo o in difformità del titolo, cioè non è che ampliamo la nostra struttura, ci sono intere strutture costruite in zone dove il dissesto idrogeologico è causato proprio da queste. Certo. Ingegner Simoncini, io la ringrazio per essere stato con noi, la richiameremo presumibilmente in futuro con questa chiarezza, sempre per naturalmente approfittare della chiarezza con cui ci esprime certi concetti. Io volevo ricordare ai nostri ascoltatori che adesso c'è il giornale radio, poi ritorneremo sui temi della essere preparati a fare quello che dobbiamo fare nel caso una scossa arrivi appunto nella zona in cui abitiamo, e sentiremo il direttore dell'ufficio previsione e prevenzione rischi del Dipartimento della Protezione Civile, Italo Giulivo, a cui ho chiesto cortesemente appunto di spostare il suo intervento dopo la ripresa del nostro programma, e poi cambieremo completamente argomento, invece alleggeriamo un po' il clima di ma che cos'è quest'estate, come siamo abituati a fare per la seconda parte del programma, e parleremo di chi vive una scelta di rinuncia ai consumi come scelta etica. Dall'altra parte parleremo invece di uno Stato che ha bisogno di introdurre un reddito di inclusione sociale per far fronte alle condizioni di povertà che in Italia sono sempre più diffuse. Per cui adesso linea alla regia e noi torniamo dopo le 9. Il segnale orario vi è offerto da... Cosa ti preparo? La tavola. Prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Ma cos'è quest'estate? È anche l'estate del terremoto di Ischia. Allora, dopo aver parlato a lungo e anche troppo, nel senso che ormai questa polemica veramente ci verrà a nausea, del tema dell'abusivismo edilizio, andiamo ai temi invece della sicurezza, perché ci ha colpito moltissimo il comportamento di Ciro, il più grande dei tre fratellini appunto salvati sotto le macerie di un'abitazione crollata, visto che è stato da più parti evidenziato come lui abbia avuto la prontezza, l'intelligenza di spingere il fratellino sotto il letto e di proteggersi con lui mentre il mondo gli crollava addosso, come ricostruisce anche Giordano Bruno Guerri questa mattina sul giornale, ma lo fanno tutti quanti i giornali. Quindi ci è venuto in mente di ribadire un po' le regole di base di condotta infrangenti di questo tipo, per chi naturalmente ha la lucidità di tenere a mente tutte le regole di comportamento nel caso in cui la casa ci tremi attorno. Il piccolo Ciro ha avuto la prontezza di fare quello che doveva fare, nascondersi sotto il letto in questo caso, in altri casi si deve andare subito sotto il tavolo. Ma Italo Giulivo, direttore dell'ufficio previsione e prevenzione rischi del Dipartimento di Protezione Civile, sul vostro sito ci sono tutte le regole e peraltro c'è una catalogazione molto accurata sulle cose da sapere e fare a seconda del momento, no? Chiaramente nel pre-sisma bisogna sapere in che zona si abita, durante il terremoto fare delle cose e dopo farne altre. Ci faccia il vademecum a beneficio dei nostri ascoltatori, che comunque vanno sempre sensibilizzati su questi punti. Intanto buongiorno e grazie per lo spostamento di orario che ci ha concesso. Buongiorno, grazie, e confermo che Ciro è stato bravissimo nel comportarsi e per proteggere i suoi fratellini. Dunque, sul nostro sito, come lei ha ricordato, del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, vi è un'apposita sezione che dice o suggerisce cosa fare prima, durante e dopo un terremoto. Prima sarebbe bene che ciascuno acquisisca consapevolezza rispetto alla pericolosità del sito in cui vive. Ciò lo può fare verificando la classificazione sismica del comune, chiedendolo al proprio comune, oppure intervistando, diciamo così, dei tecnici e degli esperti della materia. Come sapete, tutta l'Italia è sismica, è suddivisa in 4 zone sismiche, la più alta 1 e la più bassa 4, sono distribuite in tutta Italia, in particolare nell'Italia nord-orientale, l'Appennino settentrionale, l'intero Appennino centrale e meridionale, la Calabria e la Sicilia orientale. Va bene. Ora, io andrei subito, Giulivo, perché poi devo salutarla, perché devo passare all'altro argomento. Andrei subito al momento della scossa. Arriva ovviamente a sorpresa, difficilmente si annuncia e gentilmente ci comunica che sta arrivando il terremoto, più o meno di entità importante, un 4.0 come quello di cui si è parlato in questi giorni. Insomma, cosa dobbiamo fare? Beh, la cosa migliore da fare è quella di mettersi a ridosso di una parete che costituisce un muro portante dell'abitazione, cioè quelli di spessore maggiore, mettersi nel vano di una porta ricavata all'interno di un muro portante, oppure mettersi sotto una trave, evitare di stare al centro della stanza, dove si ha facilità di essere coinvolti dal distacco di dove sarebbe naturale andare subito, perché magari uno ha paura che le mura gli crollino addosso, invece paradossalmente bisogna cercare il muro portante della casa. Esatto. Non precipitarsi fuori, ma attendere che la scossa passi. Se si è all'aperto, invece, è preferibile tenersi lontano da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche, eccetera, da cui potrebbero venire giù vasi, tegole o altri elementi che poi colpiscono le persone. E se si è in viaggio, fare attenzione soprattutto ai ponti, perché ovviamente un terremoto può portare al crollo di un ponte o indurre un franamento dai versanti che poi coinvolgono l'asse. Altra raccomandazione che ho sentito spesso e che mi ha fatto molto riflettere: non precipitarsi verso le scale della propria casa o verso l'ascensore. Assolutamente, nel momento in cui la scossa è passata e comunque bisogna allontanarsi dalla casa, bisogna evitare di prendere l'ascensore e fare attenzione se si usano le scale che potrebbero essere state danneggiate. E una volta che si è fuori, quindi come ci si considera al sicuro, comunque mantenere un atteggiamento prudente, perché non sappiamo il fabbricato a fianco in che condizioni versa. Dopo il terremoto siamo sani e salvi, siamo preoccupati per le persone che abitano accanto a noi, naturalmente senza intralciare i soccorsi che iniziano ad arrivare, cosa fare, Giulivo? Bene, la cosa da fare è quella di raggiungere le aree di attesa che sono previste nel piano di emergenza comunale, e se non c'è un piano di emergenza comunale, bene chiedere o sollecitare alla propria amministrazione la redazione del piano. Lì ci dovrebbero essere persone che danno indicazioni sul da fare o forniscono ogni informazione. Evitare assolutamente di usare il telefono o di mettersi in viaggio, perché si potrebbero intralciare, diciamo, le operazioni di soccorso. Certo. La curiosità in questo in quel momento crea maggiore confusione. Certo, avere un'attenzione per un parente, per un amico, per qualcuno di cui non abbiamo conoscenza, diciamo così, di cosa sta accadendo, è bene segnalarlo con la dovuta cautela, senza, come dire, proporsi, perché, come abbiamo visto, in quei momenti possono operare soltanto persone estremamente qualificate come i vigili del fuoco, che sono abituati, allenati a operare in situazioni di emergenza. Senta Giulivo, secondo lei Ciro aveva avuto adeguate istruzioni a scuola, dalla famiglia, aveva fatto delle prove di evacuazione, insomma questa prontezza è stata istinto, cosa le suggerisce quello che è successo, oltre ad aver espresso il suo plauso appunto per il comportamento di questo bambino? Beh, per come si è comportato penso che ha avuto qualche istruzione, altrimenti certo. È particolarmente portato per questa attività e sarà utile tirarlo nel sistema di protezione civile. Grazie molto dottor Giulivo per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutta la vostra attività. La ringrazio. Noi cambiamo completamente argomento. Che abbiamo scomodato gli ABBA invece questa mattina. Giustifico sempre la scelta di certe canzoni che ovviamente assegniamo ai nostri assistenti che vanno a caccia delle colonne sonore più incredibili. Allora, per produrre 3-4 litri di detersivo bastano 20 centesimi di sapone di Marsiglia. Con un euro di soia ci sono latte e formaggi vegetali per un mese, e poi ci sono l'orto di casa, gli alberi da frutto, che oltre a fornire frutta e verdura consentono di preparare deliziose tisane alle erbe aromatiche. 38 anni lei, 46 lui, residenti ad Asola, a mano nella mano da 6 anni. Silvia e Roberto, il suo compagno operaio a chiamata Silvia e casalinga, poco importa se lo stipendio arriva a mesi alterni, perché a loro per vivere bastano poco più di 2 euro al giorno. Il segreto: arrangiarsi. Il loro fai da te è una passione che costa appena 15 euro alla settimana, non un centesimo in più. Anzi, a volte addirittura di meno. Silvia e Roberto hanno raccontato nei giorni scorsi al Corriere della Sera lo stile di vita che hanno adottato per scelta precisa qualche anno fa, che adesso addirittura si impegnano a trasmettere a tante famiglie. È una storia che in realtà non è unica in Italia, ma in realtà pare appartenere ad un filone sempre più nutrito di persone che fanno questa scelta, e che ci ha incuriosito perché abbiamo fatto questo ragionamento. Da una parte abbiamo chi si converte ad una vita molto ridimensionata in termini di scelte di consumo e non vive proprio questa condizione come sacrificio, ma anche ne deriva una piena consapevolezza di come la rinuncia al troppo sia una scelta etica e giusta. Dall'altra parte abbiamo invece un paese in cui tirare la cinghia è molto mal sopportato da molte famiglie. La condizione di privazione è inaccettabile e si amplia sempre di più il numero delle famiglie che vivono sulla soglia della povertà. Anzi, le ultime statistiche ci hanno anche raccontato che questa condizione è in aumento tra i giovani. E appunto ci troviamo ad un punto tale che per combattere questa situazione è sulla rampa di lancio, ne abbiamo parlato tante volte negli ultimi mesi, la misura del governo di cui appunto parliamo da un po', il REI, il reddito di inclusione sociale. Abbiamo messo insieme quindi due argomenti in una relazione che forse a qualcuno può anche apparire stravagante, ma invece ci sembrava interessante analizzare questo fenomeno da molti punti di vista. Allora, intanto grazie per essere con noi questa mattina l'onorevole Anna Giacobbe, che insieme alla collega Ileana Piazzoni sono state relatrici a due commissioni appunto parlamentari differenti del provvedimento di legge che ormai sta vedendo la luce, che introduce il REI e partirà da gennaio questa misura. Onorevole Giacobbe, buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a voi. Grazie a lei, poi saluto anche, può rimanere con noi appena 15 minuti, quindi devo intervistarlo velocissimamente, il professor Romano Benini, docente di politiche del lavoro all'Università di Roma, ma è anche consulente per la Fondazione dei Consulenti del Lavoro, dirige il blog Work Magazine, collega, giornalista, economista, insomma spesso ospite di tante trasmissioni televisive e radiofoniche, quindi stamattina dalla vacanza l'abbiamo rubato anche noi. Benini, buongiorno e grazie. Buongiorno a voi, scusate. Eccoci. No, ci mancherebbe, perché deve scusarsi che è in vacanza. Ci scusiamo noi che le abbiamo rotto le scatole in queste giornate, ma ad agosto è sempre un po' complicato, disturbiamo la vita a molte persone. Onorevole Giacobbe, allora il REI, il reddito di inclusione sociale, ci fa di nuovo l'ABC di questa misura che parte da gennaio, anche molto contestata, corredata da molte polemiche, ha avuto già una premessa con l'introduzione sperimentale del SIA, il sostegno per l'inclusione attiva. Quando si parte e a chi sarà destinato il REI? Sì, si parte con le domande dal 1° di dicembre e dal 1° di gennaio 2018 potranno essere, diciamo, corrisposti sia i contributi economici che sono previsti in questa misura, sia anche i servizi di sostegno alle famiglie, alle persone che sono correlati a questo contributo economico. Quindi il reddito parte dal 1° gennaio, ma sarà già possibile fare le domande dai 1° di dicembre. Questo è un aspetto importante. Dai 1° di dicembre presso i comuni. I comuni si organizzeranno anche sotto la regia delle regioni. Come lei ricordava, avere già impiantato, diciamo, il sistema del sostegno all'inclusione attiva, insomma questa misura che ha in qualche modo provato, è stata una prova del reddito di inclusione, e quindi per questo le strutture dei comuni sono già adeguate. L'INPS dovrà ulteriormente dotarsi, diciamo, programmi eccetera per gestire le informazioni, ma il sistema, diciamo, è già abbastanza rodato da poter partire rapidamente. È una misura a vocazione universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione di inclusione sociale e lavorativa. Questo è un aspetto importante, non è un sostegno finanziario destinato a quelle famiglie che sono in difficoltà, così a vuoto, a perdere, ma condizionato dal perseguimento appunto di un determinato obiettivo di inclusione sociale. Questo è un aspetto importante. Professor Benini, una misura di questo tipo, che cosa ci racconta di questo paese? Ah, innanzitutto che ci sono 4 milioni di persone che hanno la necessità di avere una forma di sostegno di integrazione, che tra l'altro non necessariamente sono disoccupati, perché il punto è il reddito molto molto molto basso. L'altra cosa che ci racconta è lo sforzo di fare una cosa che non si è mai fatta, cioè di collegare misure di inclusione sociale all'attivazione al lavoro, diciamo alla capacità di dare a queste persone la possibilità di rientrare in qualche modo nel mercato del lavoro, o quantomeno di essere più attrezzate per potersi prima o poi, insomma, diventare autonome. E questa però è una sfida abbastanza delicata e importante, anche perché è una sfida, dicevo, abbastanza nuova per il nostro paese, che deve organizzare un sistema di servizi sociali e per il lavoro adatti a questa sfida. E so che non sempre c'è la percezione che ci sia un'adeguata rete in questo senso, no? Questi meccanismi, allora, per poter esigere il REI bisogna rivolgersi allo sportello comunale, ad uno sportello comunale attrezzato dei servizi sociali. Nel momento in cui poi l'INPS dà il via libera, c'è questo piano di attivazione che deve essere organizzato mettendo in rete i servizi sociali dei comuni e i servizi per l'impiego, che adesso non si è capito ancora bene se sono ancora delle province, delle regioni, eccetera, eccetera. È evidente che in queste settimane, in questi mesi, il governo dovrà anche creare quella infrastruttura che permette a questo REI di non essere solo un reddito, ma di essere uno strumento di inclusione. È molto importante. Che cosa si intende, professor Benini, con inclusione sociale nel 2017? Che nessuno può essere lasciato fuori dalla possibilità di essere attivato socialmente, di dare il proprio contributo e soprattutto di realizzare un obiettivo fondamentale, che è quello dell'autonomia. E quindi? Quindi essere autonomi significa non dover dipendere da forme di assistenza pubblica per poter sopravvivere, significa potersi in qualche modo anche muovere sul mercato del lavoro, significa appunto poter essere autonomi, che è una, diciamo, è un presupposto per poter essere liberi. Certo. Onorevole Giacobbe, allora, per monitorare l'efficacia di questo strumento che sarà reso disponibile per le famiglie italiane in difficoltà appunto a partire dai prossimi mesi, ci sarà un attivo impegno da parte dei comuni che dovranno anche poi censire il comportamento delle famiglie che ottengono questo strumento appunto di sostegno, per capire se si sono facilmente introdotte in questi percorsi appunto di inclusione sociale. Mi spiega come poi anche lo Stato a sua volta monitorerà il monitoraggio dei comuni, perché sarà importante valutare anche da questo punto di vista l'efficacia della misura per poterla consolidare nel tempo. Sì, sono previsti degli strumenti di monitoraggio ma anche di supporto da parte del Ministero nei confronti dei comuni, che dovranno in forma associata, è importante anche questo, realizzare questo tipo di attività. C'è un finanziamento significativo, una quota del fondo, 262 milioni nel 2018 e poi 277 dal 2019 per rafforzare questi servizi, che vuol dire anche assumere del personale, per carità, ma soprattutto garantire quelle attività di tirocinio, la mediazione familiare, la mediazione culturale, cioè tutte quelle attività appunto che consentono alle persone, non soltanto attraverso un contributo economico ma anche un supporto umano, se posso dire, di uscire dalla propria condizione di deprivazione. Per fare un esempio, per fare, diciamo, un confronto, il totale del fondo politiche sociali attualmente è 300 milioni, quindi si tratta di risorse ancora ovviamente mai sufficienti, ma significative, e si affiancano appunto un investimento grande per quello che riguarda i contributi alle persone. Circa un terzo dei nuclei familiari che sono in condizioni di povertà assoluta potranno accedere in misura diversa ovviamente a questo tipo di, certo, sostegno. Quindi ripeto, ci sarà monitoraggio ma ci sarà anche supporto da parte del Ministero. Noi abbiamo molto insistito su questo, ha insistito anche l'Alleanza contro la Povertà, che è stato un partner di questa discussione, della costruzione di questo provvedimento. Fondata da quell'alleanza fondata dal professor Gori, mi sbaglio? È quella raccoglie sì, un fronte molto, molto ampio di associazioni, sindacati, ma anche pubbliche amministrazioni che si sono impegnate, si impegnano particolarmente su questo terreno. È stato preziosissimo il loro contributo. Certo, insomma, queste situazioni ci sono, per cui ovviamente vanno, uno Stato responsabile deve naturalmente farsi carico anche dei cittadini che si trovano in queste condizioni, anche quando ci sono condizioni economiche non particolarmente positive, come quelle che stiamo vivendo nel nostro paese da qualche anno a questa parte. Ma detto questo, lo Stato deve farsi anche carico di condizioni di deprivazione, come le definiva l'onorevole appunto Giacobbe, e ce ne sono tante nel nostro paese. Peraltro qualche ascoltatore invece, onorevole Giacobbe, lo chiedo a lei, perché la nostra politica di turno questa mattina ovviamente vede già una stretta relazione con le elezioni in arrivo e quindi soldi a pioggia. Come rispondete a chi individua anche questa relazione che ci sta sempre, no? Ma insomma, ci sono elezioni ogni momento, se guardassimo a quello non riusciremo più a fare nulla in realtà. No, si tratta, come veniva già ricordato prima, di un intervento che impianta un sistema, finalmente. Ci abbiamo anche messo un po' di mesi per farlo, ci sono ancora questi mesi di qui a dicembre per dare gli strumenti ai comuni perché davvero si possa non solo dare il contributo ma dare un sostegno alle persone. Io credo che proprio nel rapporto con chi se ne è occupato, con le associazioni che se ne occupano, è venuto fuori quanto bisogno ci fosse di organizzare questo sistema in un certo modo. E il bisogno c'è, la povertà è cresciuta in questi anni. Infatti, dall'anno scorso a quest'anno si è stabilizzata, ma abbiamo avuto anni di crisi che sono stati pagati soprattutto da una parte di popolazione, non solo dei poveri, diciamo tradizionali, se vogliamo dire così, no? Dalle situazioni conosciute. Tante famiglie, per la perdita del lavoro, sono cadute in uno stato di mancanza assoluta di mezzi e vanno aiutate. Certo. Si parte dalle famiglie con i bambini, lo ricordo, perché sono considerate una priorità nella priorità. Adesso le faccio raccontare a chi sarà destinato con qualche dettaglio in più il beneficio economico, a quanto ammonta, perché molti ascoltatori ce lo stanno chiedendo. Faccio però l'ultima domanda al professor Benini, che poi devo lasciare andare. Ecco. Allora, le persone in difficoltà economica, la deprivazione economica, la mancanza di lavoro, il fenomeno dei NEET, e in questi giorni in Italia si fa un gran parlare anche di questi nuovi strumenti a sostegno appunto dell'occupazione giovanile. Ci sono altre indicazioni uscite proprio stamattina in questo maxi piano che il governo sta preparando appunto per rilanciare l'occupazione giovanile. Prima si parlava di misure di decontribuzione per le aziende, per gli under 32, adesso l'età si sta già abbassando a 29 anni, insomma giovani, deprivati economicamente parlando, la fascia delle marginalità si va sempre di più ampliando nel nostro paese, oppure è un fenomeno che ha una natura fisiologica della quale dobbiamo preoccuparci in maniera ragionevole e non esagerata? Benini, che ci dice? Io l'ho scritto e detto ripetutamente, in realtà noi stiamo semplicemente pagando gli effetti di una decina d'anni di mancato investimento nel fattore umano e nella promozione dello sviluppo. È chiaro che adesso bisogna riprendere in mano tutto quello che non è stato fatto e tra le cose da fare ovviamente cercare di promuovere garanzia giovani e altro, l'occupabilità delle nuove generazioni. Uno strumento che ha funzionato e che quindi viene probabilmente esteso in modo strutturato è la decontribuzione per l'assunzione degli under 29, che comunque sta già in garanzia giovani, quindi sì, sarà probabilmente una misura più ampia. E poi ovviamente credo che al tema della decontribuzione vada collegata anche l'intervento sulle competenze e sulla qualificazione professionale dei nostri giovani, perché non basta avere lo sconto fiscale, bisogna anche avere la competenza per poter in qualche modo essere inserito in un'azienda. Tutto questo è uno sforzo che sta facendo l'Italia, ma che in realtà da molti anni stanno facendo quasi tutti i paesi europei, perché la crisi ha colpito soprattutto le fasce più deboli e la reazione non può essere soltanto il sostegno al reddito, ma deve essere anche un forte sforzo rispetto al sistema scolastico formativo. Beh, per i giovani, questo è evidente. Certo. Benini, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento. Grazie di vacanza. Interrogo ancora un po' l'onorevole Anna Giacobbe. Allora, ci sono molti ascoltatori che stanno già cominciando a chiedere come faccio a sapere quando posso cominciare a far domanda al comune, i parametri, ne ho diritto io, c'è anche questa relazione, onorevole Giacobbe, sugli ammortizzatori sociali. No, perché mi pare di ricordare che chi sta avendo un ammortizzatore sociale perché magari è temporaneamente senza lavoro non si è esclusa la possibilità di far richiesta del REI, o mi sbaglio, mi confondo con altro? No. Se si usufruisce di ammortizzatori sociali non si ha diritto, perché c'è già, diciamo, quell'intervento di sostegno al reddito. È possibile però percepirlo anche se si fanno lavori sotto una determinata È compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. È compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa entro determinati limiti, ovviamente. Anzi, il programma del reddito di inserimento è quello di fare, non disincentivare la ricerca. È partita una sirena, onorevole Giacobbe, che è successo? È la sua macchina oppure Arrivo? Qualcun altro? No, stavo sentendo la sirena, non è qualcuno a posto. No. L'importo è, diciamo, fino a 485 euro, 5 componenti, 382 3 componenti del nucleo familiare. E 190 euro mensili per una persona sola. 186, sì, 187, 190 per una persona sola. Bisogna avere un reddito ISEE, cioè comprensivo anche del valore del patrimonio, cioè del calcolo del patrimonio, di 6.000 euro l'anno, e un reddito disponibile fino a 3.000 euro l'anno. Perché? Perché in questo modo anche chi ha un reddito così basso disponibile, ma per esempio la casa di abitazione, può accedere al reddito di inclusione. Certo. Ci ribadisce qual è la platea potenzialmente raggiungibile da questa misura? Sono 500.000 famiglie all'incirca, perché sono i nuclei familiari in quelle condizioni, cioè con figli minori o con disabili gravi, oppure con un disoccupato ultra 55enne senza, diciamo, nessun sostegno al reddito. Sono circa 640.000, 140.000 di queste usufruiscono già di interventi assistenziali di altro tipo, quindi ecco, sostanzialmente sono 500.000, 1.700.000 persone. Questo all'incirca è un punto importante, perché probabilmente di queste 500.000 famiglie che potrebbero vedersi erogare questo sostegno, che naturalmente è propedeutico anche ad un percorso di inclusione sociale e lavorativa, sono famiglie che magari un po' si possono attivare individualmente per andare a chiedere al comune, formulare la domanda e farsi aiutare, altre neanche potranno mai sapere dell'esistenza, certo, di uno strumento di sostegno di questo tipo. Queste famiglie qua come le possiamo raggiungere? Avete già pensato anche a questo, l'attivazione dei dei comuni va anche in questa direzione, onorevole Giacobbe? Sì, i comuni hanno contatti già con i loro servizi sociali, con le persone in difficoltà, il mondo della scuola è sicuramente un tramite, visto che sono soprattutto le famiglie con minori quelle che avranno in questa prima fase, diciamo, no? Poi noi contiamo di avere ulteriori risorse per ampliare questo intervento, ma ora appunto si parte soprattutto da loro. E bisogna che davvero quella che è chiamata rete, anche nella legge, cioè l'insieme delle associazioni che verranno coinvolte sia a livello nazionale che a livello locale, facciano, come già stanno facendo sostanzialmente, un lavoro di contatto, di presa in carico che insomma nell'insieme consenta alle persone di saperlo. Poi l'informazione pubblica e tutti i media sono ovviamente un veicolo importante. Abbiamo noi il nostro mese, lo facciamo, esatto, la richiameremo settimane. Ultimo aspetto, onorevole Giacobbe, perché sì. Allora, sostegno pronto a partire ad essere erogato dal 1 gennaio, le domande si possono già cominciare a presentare da dicembre, il cane vuole dire la sua, e però c'è un ultimo passaggio formale legislativo da completare, non è che ci fate qualche scherzetto, no? No, noi abbiamo dato nei tempi più rapidi possibili i pareri delle commissioni al governo, in modo che già immaginiamo questa settimana possa approvare definitivamente il decreto legislativo che dà attuazione alla legge. Quindi questo consentirà anche all'INPS di attrezzarsi con le modifiche che devono essere apportate ai programmi per la raccolta delle domande e per la verifica delle sì. dei requisiti, e quindi davvero non credo che ci saranno proprio problemi. Benissimo. Da questo punto di vista. Grazie all'onorevole Anna Giacobbe, buona giornata, grazie per il suo contributo di questa mattina. Intanto, come al solito, accumulo un po' di ritardo, andiamo alla nostra pausa. Ma cos'è quest'estate? Voglio andare a vivere in campagna. Beh, nei mesi passati abbiamo parlato anche di tanti giovani agricoltori che fanno proprio gli agricoltori di ritorno, no? E quindi trovano in questa attività un modo anche per, risolvere la condizione di disoccupazione. Poi non è una strada per tutti, parliamoci chiaro, perché è una strada di grandissimi sacrifici e molti ci sbattono la testa. Ma insomma, abbiamo scomodato invece Toto Cutugno per andare avanti nel nostro tema di questa mattina, in questa relazione curiosa che abbiamo voluto stabilire fra uno Stato che introduce il reddito di inclusione sociale per quelle famiglie in forti condizioni di difficoltà economica, di deprivazione economica. Con l'ascoltatore ci chiede che cosa significa deprivazione economica, mi sembra che il termine già lo dica da sé. E poi abbiamo, appunto, vi dicevo, voluto stabilire una relazione fra questo argomento e la condizione invece di chi fa delle, non dico sacrificio economico, ma di una rimodulazione delle scelte di consumo, appunto una scelta di vita piuttosto chiara. Siamo partiti da questo caso che abbiamo trovato appunto sul Corriere della Sera, ma in realtà molti giornali, anche noi, ne raccontiamo spesso di chi fa di una vita completamente diversa rispetto al proprio passato, appunto una scelta etica e pienamente consapevole. Volevo rispondere intanto ad Alfredo, che, sempre ritornando su REI, il reddito di inclusione sociale, chiede perché non usare anche le reti delle associazioni di volontariato per diffondere la notizia dell'esistenza e della partenza breve di questo strumento. E dice: chiese che si occupano di sostegno ai meno abbienti, Caritas e anche Banco Alimentare. Noi il Banco Alimentare stamattina, Alfredo, lo abbiamo interpellato per un altro argomento che comunque è abbastanza anche collegato a tutto quello di cui stiamo parlando questa mattina, perché proprio un anno fa vedeva la luce la legge contro lo spreco alimentare. Le disposizioni sono entrate in vigore in realtà precisamente il 14 settembre dell'anno scorso. La legge è la 166 del 19 agosto del 2016 e conteneva disposizioni sulla donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Buongiorno a Marco Lucchini, segretario generale della Fondazione Banco Alimentare Onlus, ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie. Con lei abbiamo raccontato nei mesi passati la genesi di questo provvedimento, tutto lo spirito, poi la nascita e la partenza. Adesso siamo addirittura in grado di formulare il bilancio di un anno di questa dell'attività, diciamo così, un po' di questa norma. Peraltro chiedo anche agli ascoltatori all'800 24 00 24 di raccontarci se l'hanno applicata loro stessi, per esempio banalmente chiedendo la cosiddetta non doggy bag, non si chiama più così in ristorante, vero Lucchini? Diciamo che è un nome che nasce negli Stati Uniti proprio perché anni fa c'aveva il concetto di portare a casa quello che non cane. Si può, esatto. E grazie a Dio invece oramai non è solo per quello, perché in realtà perché si può anche usare ancora per quello, ma ha trovato vari nomi. Noi abbiamo lavorato insieme proprio ad esempio a Cookie per fare questa serie The Bag, che è invece con lo scopo di poter portare a casa ancora il gusto magari di un'ottima cena a un ristorante. Sa che mi sono persa come la chiamata adesso? Save the bag. Sì. Allora, e questo prego. È l'aspetto un po' folcloristico di una norma che in realtà ha uno spirito molto più rilevante, molto più importante. La battaglia contro lo spreco alimentare in Italia la conducete voi da anni, insieme al professor Andrea Segre e a tante altre istituzioni, tanto che adesso al punto anche tutti questi show cooking che vediamo sempre in televisione nei titoli di coda finale segnalano molto attentamente come tutto quello che viene cucinato viene portato o a voi o a altre organizzazioni che poi redistribuiscono, e questo è un aspetto molto importante, perché lo spreco che vediamo là, anche se ci piacciono tanto questi show, è veramente dell'inaudito. Ma io penso che questa legge, tra i tanti meriti che ha avuto, sia stata anche quella di riportare in evidenza quello che almeno in Italia si faceva. Non siamo quei spreconi come tante volte si dice, è che non c'era più neanche come Jessica Rabbit che diceva: non è colpa mia che mi disegnano così, poi gli italiani lo stesso. Esatto. Cioè, in fondo è una pratica che non abbiamo mai smesso di applicare, se era possibile farlo. Certo, è cambiata molto, sto parlando ora delle famiglie, è cambiata molto la famiglia, è cambiato molto lo stile di vita, quindi a volte abbiamo perso un po' di conoscenze, anche di informazioni corrette. Io dico sempre che, ad esempio, questo benedetto TMC, termine minimo di conservazione, è stato veramente presentato male, quindi è arrivato a coincidere con la scadenza, quindi tanti prodotti che ancora nel nostro frigo erano perfettamente commestibili, dove bastava solo o l'osservazione, sentire il profumo, vedere lo stato di conservazione e ci avrebbe potuto tranquillamente consumare, invece lo riducevamo subito a un prodotto che non era. Ecco, allora è ritornata non solo di moda, ma è ritornata anche un coraggio che prima forse si era un pochettino perso, e questo è sicuramente merito anche di questa legge, perché ha chiarito, non è un caso che i primi articoli sono tutti delle definizioni. Cioè, esatto, definizioni, rimodulazioni di aspetti burocratici. Chiariamo bene le cose come stanno, e questo ha portato sia nelle imprese sia nei privati cittadini questa consapevolezza di dire: beh, ma allora quello che facevo un po' così, chiamiamolo il nero, e pensavo di essere l'unico, invece scopro che divento un patrimonio di tutti. Infatti, quindi la legge è fondamentale. Esatto, ridefinisce lo spreco alimentare e le eccedenze alimentari, appunto, proprio concettualmente. È la prima cosa fondamentale, questo, perché eccedenza è qualcosa che ancora posso recuperare e quindi non buttare. Lo spreco è qualcosa che non ha più la possibilità di un consumo umano, può avere ancora altri tipi di consumi, dall'animale fino ad arrivare alle bioenergie, volendo, però non ha più. Quindi è stato definito anche che l'eccedenza è ancora a favore della persona, uno spreco può essere ancora recuperato, però per altre certo. finalità. E quindi questo ha attivato, devo dire, anche altri soggetti, non solo Banco Alimentare o anche altre organizzazioni, e quindi questo è un processo estremamente positivo. Virtuoso. Mi collego anche al REI, perché abbiamo lavorato molto anche su questo, e la domanda dell'ascoltatore diceva: ma non può essere, le associazioni non possono diffondere. Sicuramente lo stiamo facendo. Ah, ottimo. Ma di più ancora, cioè il REI, che è una politica, non è solo un intervento spot come altri, o spot o addirittura a modi di test, di prova, di vedere se è una collaborazione al REI. Cioè, quindi c'è da una parte l'amministrazione, lo Stato, che interviene con un contributo economico, le organizzazioni come noi che intervengono dando una risorsa che è il cibo, l'organizzazione come Caritas che invece accoglie la persona, magari mette a disposizione le sue strutture, i suoi volontari. Allora tutti insieme noi possiamo dare un contributo a chi si trova in uno stato di bisogno. Quindi è una collaborazione fortissima, infatti non a caso intorno al REI, REI nasce in quella che viene chiamata l'Alleanza contro la Povertà, sì, che sì, sono più di 40 organizzazioni che prima ognuno lavorava per sé. L'abbiamo citata. Caso, ci si è messi assieme per lavorare su uno scopo che è quello, sì, di aiutare, sì, le persone più bisognose. Con l'onorevole Anna Giacobbe l'abbiamo citata anche prima, richiamando anche l'ispiratore, il professor Cristiano Gori, di questa iniziativa. Senta, ritornando invece alla nostra legge, sì, contro lo spreco alimentare, che ci viene sempre da definire la legge sullo spreco alimentare, no, è contro lo spreco alimentare, visto, esatto, che è una legge molto attenta alle definizioni e alle parole, diamone anche la denominazione corretta. Allora, in un anno, che cosa è successo? Come dice l'onorevole Gadda, è una legge neanche contro, ma una legge a favore del recupero, a favore del recupero, ecco, benissimo. Quindi è positiva fin dalla partenza, non, vabbè, è contro qualcosa, ma è a favore di qualcosa. Cosa è successo in questo anno? Che bilancio fate? Allora, non facciamo un bilancio, non facciamo ancora un bilancio perché l'anno non è passato, sì, cominciamo a fare delle stime, delle previsioni, dei forecast, come si suol dire, che però sono estremamente positivi. Cito qualche esempio dei tanti fatti che sono accaduti, che poi sommeremo, perché spesso non è possibile sommarli così facilmente come si può fare per altre situazioni. Cito qualche esempio, ripeto, allora, nella grande distribuzione, che anni che noi lavoriamo per poter recuperare il cibo, dall'entrata in vigore a oggi, quindi è quasi a un anno, noi stimiamo più 20% di recupero dal mondo della grande distribuzione. Nel mondo della ristorazione o del congressuale, piuttosto che di grandi eventi o grandi numeri di persone, l'esempio più clamoroso è stato 3 settimane fa, quando per la prima volta siamo riusciti a recuperare del cibo da navi crociere. Da Costa Crociera, infatti volevo poi arrivare a farle raccontare E tutti i sabati potrei mandare la lista dei succulenti piatti che questa comunità di Arezzano riceve tutti i sabati, e che quindi sabato e domenica può tranquillamente i ragazzi mangiare e godere di quello che anche chi fa la crociera ha già. Che è un altro successo incredibile, non era mai successo nel mondo. E qui Costa si è proprio resa conto che prima buttava via qualcosa, sì, che pensava rifiuto, leggendo la legge ha capito che invece era ancora qualcosa che si poteva utilizzare. E quindi abbiamo iniziato un percorso che prima era inimmaginabile. Ma poi un altro esempio che io cito sempre, perché secondo me dice di questa legge, cioè, perché lo ci faccio capire, Lucchini, perché loro prima della legge, anche avessero voluto prendere tutto il cibo che non veniva consumato e regalarlo alla Caritas o a voi o a Zia Maria, non avrebbero potuto farlo. No, non è proprio così. Avrebbero potuto farlo, se no Banco Alimentare, i 30 anni di storia che ha, non, ecco, li aveva. Quindi? È che era estremamente, come dire, molto più complesso, dava, come dire, meno certezze al donatore. Questa chiarezza che è stata fatta, allora, gente come noi del banco, esperta, che 30 anni che ci lavorava, riusciva a entrare dentro in questo labirinto, perché c'erano già degli articoli che favorivano questo dal 97 con la legge sulle onlus, poi il 99, sì, l'IVA, infatti, la legge buon samaritano, solo che erano tutti sparpagliati, era un po' appunto come una caccia al tesoro, le aziende non avevano tempo di star lì, soffermarsi, quindi ci voleva una grande disponibilità. Oggi invece con questa legge si trovano in un'unica legge tutto il processo, tutte le possibilità che hanno e le definizioni, mentre invece prima ma sarà così o non sarà così. L'altra cosa importante, ad esempio, questo accordo che abbiamo fatto, un protocollo con i veterinari di medicina preventiva, che sono poi veterinari delle ASL, cioè quelli che fanno i controlli. Infatti il grosso lavoro che abbiamo fatto con Costa Crociere è stato proprio questo tavolo di lavoro insieme a Capitaneria di Porto, insieme appunto a chi fa i controlli, a tutta la parte delle dogane, cioè l'aspetto fiscale, che prima invece erano solamente dei controllori per cercare di fermare, impedire una cosa di questo genere. Oggi invece anche loro partecipano per favorire Allora, tutto questo che è veramente a volte sembra difficile, ma dice, ma come, prima adesso no, cioè prima no, adesso sì, no. Vabbè, chi è che lo diceva? È... Einstein, una cosa è difficile fino a quando qualcuno si alza e la fa. Ecco, perfetto, ecco. Perfetto. Allora, diciamo che questa, noi per anni ci siamo alzati e abbiamo tentato di farla, adesso si sono alzati anche tanti altri soggetti che prima erano lì un po' su alla finestra a guardare. E questo ha improvvisamente mobilitato tutta una serie di risorse. Come dicevo prima, io sono rimasto colpito perché in un anno avrò partecipato a più di 200 convegni, incontri, che non ha promosso Banco Alimentare o l'onorevole Gadda, ma la gente, le organizzazioni, le amministrazioni. Lucchini, lei è inarrestabile, mi rendo conto che è entusiasta di questa sua battaglia portata avanti con successo, non solo sua personale, ma di tutte le organizzazioni che gravitano intorno all'Alleanza per la Povertà, poi intorno all'attività del Fondazione Banca Alimentare, eccetera. Ma devo andare al traffico perché è tardissimo, poi ho un'altra ospite e le prometto che la chiamo a ridosso di metà settembre, quando ci sarà il compleanno rotondo della legge contro lo spreco alimentare, e quindi faremo lì un bel bilancio della situazione, assolutamente puntuale e preciso. Grazie, buona giornata. Buona giornata a tutti. E complimenti, il traffico tra poco. Ma cos'è quest'estate? Un'introduzione un po' anche pop per la nostra ultima ospite di questa mattina, che richiama la vicenda dalla quale siamo partiti per fare tutto un percorso un po' strano, dal reddito di inclusione sociale alla Fondazione Banco Alimentare e la legge contro lo spreco alimentare, una battaglia che fa in via del tutto personale e familiare da sempre la nostra amica con la quale concludiamo il programma. Stefania Rossini è una blogger, era stata ribattezzata la blogger low cost più famosa d'Italia qualche anno fa, ha scritto il libro Vivere in 5 con 5 euro al giorno. Stefania, riesci ancora a portare avanti con successo la gestione di un budget così contenuto? Appunto, la tua vita familiare è sempre condizionata da questa tua visione così attenta del bilancio familiare? Buongiorno intanto. Buongiorno, grazie mille prima di tutto. La mia non è una battaglia, la mia è una vittoria, perché sì, ci riesco, nel senso che comunque il tempo insegna. Se vuoi metterti in gioco, prima di tutto io sono partita da me stessa e mi sono messa in gioco, dovevo farcela, ma era una cosa pro. Per imparare, io non mi sono inventata niente, ho ripreso abitudini che avevano un tempo le donne, adesso ci sono tante femmine e poche donne. Riscopriamo l'essere donna, ma non casalinga. Ne facciamo donna anche un pochino la questione di genere all'interno, sì, del genere. Noi possiamo. Stefania, noi possiamo tutto. In questo libro che tu hai scritto qualche anno fa, noi ti avevamo già reintervistato, ma ci sembrava divertente riconvocarti questa mattina e metterti a fianco anche della storia raccontata dal Corriere della Sera in questi giorni di Silvia e Roberto, che hanno fatto appunto scelte molto simili alla tua. Sei una donna tuttofare, mamma di tre figli, un solo stipendio ad entrare in casa, quello di tuo marito, il mutuo da pagare che immagino sia sempre lì, perché pure il mio è ancora lì, chissà quanto ancora ci starà. Insomma, hai espresso in questo volume il vademecum per risparmiare, vivere in modo più sobrio però sempre con gioia. Allora, le regole principali per portare avanti questa scelta di vita, che non è deprivazione o sacrificio ma consapevolezza? Beh, la prima è prendersi la responsabilità della propria vita e non delegare ad altri. Quindi ci prendiamo la responsabilità di essere vivi e di fare qualcosa per noi stessi, per la comunità e per la nostra famiglia. Quindi questa è proprio la prima base, imparare ogni giorno qualcosa di nuovo, perché comunque si può. Adesso abbiamo una fonte ricchissima, un'arma a doppio taglio che è il web, ormai c'è di tutto, di più, di tutto e di più. Per me è stato difficilissimo trovare il tutto per me e la cosa e la ricetta giusta per me. Piano piano le ho messe anche oltre nel libro. Io ho scritto altri 7 libri, ma ho un blog che si chiama Naturalmente Steffi, dove comunque ci sono tutte ricette, 200, 300, 400, non solo culinarie, ma come fare tantissime cose, come prendersi appunto la responsabilità, ma tutte cose molto semplici. E le ho proprio messe lì gratuitamente a disposizione di tutti, perché il mio messaggio fin dall'inizio era forte e chiaro. Se ce l'ho fatta io, se hanno voglia ce la possono fare tutti. Assolutamente. Perché sono tutte cose molto semplici, veramente, davvero, le facevano le nonne 100 anni fa, 50 anni fa senza una laurea. C'è però io... anche in questo libro, tu dici, ne ho scritti tanti, io ritorno sempre su quello attraverso il quale ti ho conosciuta, Stefania, che però a prescindere dalle ricette magari che si possono studiare per evitare di buttare del cibo che magari sta scadendo, la tua pratica dell'uncinetto, fare anche dei cosmetici con dei prodotti naturali, in realtà c'è un capitolo molto ampio dedicato al risparmio sulle cose difficili, perché c'è tutto il tema per esempio dell'utilizzo della corrente elettrica, del gas, dell'acqua. In una famiglia numerosa naturalmente tenere sotto controllo anche queste spese non è proprio banale, a meno che non urli con i figli dalla mattina alla sera affinché spengano tutte le luci possibili e non consumino tanta acqua quando si lavano i denti e fanno scorrere lì il rubinetto come se non ci fosse un domani. Stefania, su questi aspetti, con le spese fisse rilevanti per tutte le famiglie, due indicazioni pratiche per me e per i nostri amici che ci seguono. Sì, beh, questo è sante parole, perché comunque è la cosa più difficile, perché comunque sono tasse. La spesa è irrisoria, la spesa del consumo familiare è l'80% sì, sono tasse, quindi non possiamo farci nulla perché siamo tassati. In Italia siamo tassatissimi, quindi lì purtroppo io ho giocato forza sull'educazione a miei figli, quindi io non urlo tutto il giorno, ma ho cercato di fare educazione. Questo non vuol dire che sono bravissimi e che siamo tutti etici e tutti straordinari. Dovranno pure fare i ragazzi, cioè, ecco, insomma, devono vivere anche respirare, loro. Esatto. Bravissima. Voglio respirare anch'io, soprattutto d'estate. E quindi vabbè, stare, insomma, questo è proprio una questione di educazione. Stiamo attenti, è questione di rispetto anche del pianeta. Sono tutte ricette e tutti consigli molto semplici e banali, ma che ci possono aiutare. Invece di fare il bagno, fate la doccia. Quando vi lavate i denti, chiudete l'acqua. Sono tutte veramente cose che ormai si sentono ovunque. Io qui questo aspetto in realtà l'ho molto accantonato negli ultimi anni, perché appunto sono quasi tutte tasse. Io per quanto possa essere brava, non posso farci niente. Ho cercato di sviluppare dove io potevo fare tanto, e quindi anche nel mio blog per esempio questi consigli non li ho neanche messi, ma appunto perché io lì sono molto in difesa. Tutti siamo in difesa quando si tratta di tasse, siamo tutti in difesa. Quindi io ho cercato di sviluppare tutto il resto. Esatto. Senti, quante persone ti chiedono consigli e noti ancora come dire, un po' di anche scarsa consapevolezza rispetto al cambiamento di molte abitudini che magari qualcuno fa fatica a fare, poi magari, ecco, si imbattono in te, nella tua esperienza scoprono un mondo nuovo che magari di cui prima non avevano minimamente appunto consapevolezza. Insomma, che tipo di comunità c'è attorno al tuo blog? Ci abbiamo un minuto, Stefania. Sì, allora c'è di tutto e di più. Per fortuna ultimamente ci sono persone molto consapevoli, la consapevolezza adesso è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, e io dico grazie a voi stessi, perché fate del bene a voi, fate del bene al pianeta. Quindi sono persone molto più consapevoli rispetto a tanti anni. Alla fine effettivamente io quello che promuovo è il far da sé, quindi non tutti hanno voglia di farlo, lì sta proprio la chiave: hai voglia, non hai voglia. Punto. Grazie. Prego. A Stefania Rossini, semplicemente Stefi, com'è il nome del blog che adesso mi sono persa il foglio? Naturalmente Stefi, ma anche semplicemente Stefi, bravissima, grazie, autrice di 7 libri, fra i quali c'è anche Vivere in 5 con 5 euro al giorno. Il nostro programma termina qui per oggi, ma torniamo naturalmente domani, riparleremo dell'anniversario del terremoto appunto del centro Italia. Ringrazio Chiara Compagnoni, Stefano Sfondrini, Barbara Bianchi e Laura Faggin per la collaborazione in redazione, uno staff incredibile in questo periodo, ma c'è anche Peter Bescapè in assistenza tecnica. Io torno domani, a tutti da Deborah Rosciani. Buona giornata.